Innanzitutto è un fumetto collettivo realizzato da 12, di cui la maggior parte ha l'assoluta prima esperienza dei giovani studenti o appena finita l'università, più o meno un'area universitaria, che si sono cimentati in questa prova. È nato attraverso un laboratorio, quindi un laboratorio collettivo che ha lavorato partendo da interviste a voi protagonisti della radio, che ci avete raccontato alcune, ovviamente una minuscola parte delle infinite storie che in 50 anni la radio ha attraversato, ovviamente essendo un'emittente di informazione che si è occupata di tutto ciò che è successo nel mondo in questi 50 anni, che non sono stati decisamente piatti, diciamo. E quindi interviste rielaborate, tirato fuori la storia è stata messa in forma da Alfredo Pasquali, presidente della radio, che tra l'altro è, credo, l'unica persona che ha seguito la storia della radio dall'inizio fino ad oggi. Sì, è il più anziano, diciamolo. Una memoria storica particolare su questa questione. Quindi lui ha un po' costruito il canovaccio, il soggetto, diciamo, su cui poi abbiamo lavorato per definire più in fino le sceneggiature, e poi ognuno dei ragazzi ne ha disegnato un pezzo, una delle storie, che alla fine sono diventate 11, selezionate appunto in questo modo da Alfredo. Come dicevi, 11 storie non esaustive, però la cosa che colpisce, e poi appunto chi verrà alla presentazione mercoledì magari lo capirà meglio, è che in realtà, come dire, la radio fa un po' da sfondo a quelle che sono state anche le trasformazioni sociali, politiche del nostro paese. Sì, infatti è stata questa, credo, uno degli aspetti più interessanti del lavoro laboratoriale, anche perché gli autori, essendo giovani, se sono sui 25 anni, ovviamente di tante cose avevano forse solo sentito parlare e di altre non avevano neanche sentito parlare. Quindi è stata anche una ricostruzione storica di questi 50 anni all'interno dei quali, diciamo, il mondo è cambiato radicalmente. È finita la guerra fredda, forse anche ricominciata a questo punto, però è successo di tutto: trasformazioni sociali, culturali, di costume, è esplosa l'immigrazione in Italia, tantissime cose. C'è San Genova 2001, e appunto i ragazzi erano forse appena nati o neanche, quindi ne avevano sentito parlare, per loro è stato estremamente emozionante sentire dei testimoni diretti di quei fatti, ad esempio. Quindi questa è, diciamo, la caratteristica della radio, no? Essendo stata sul pezzo, sulla notizia, tra 50 anni ha tantissime cose da dire, e quindi recuperarle, anche se molto in piccolo, perché non si poteva fare un'enciclopedia a tre cani, è stato emozionante. 11, come dicevi, disegnatori e disegnatrici diversi, alcune anche alla prima esperienza, quindi anche all'interno del fumetto gli stili, come dire, di disegno sono diversi. Sì, questa è una caratteristica, credo, nostra, che siamo alla seconda prova, no? L'anno scorso abbiamo fatto un altro workshop con le modalità, su un argomento completamente diverso, abbiamo indagato un quartiere di Bologna, la Pescarola, però le modalità erano le stesse, e ogni pezzetto di storia ha una mano diversa. Credo che non ci siano altri fumetti con una storia, non antologie, non collettanee, ma con una storia unitaria, che presentano questa caratteristica, e noi abbiamo cercato di farla diventare non tanto un limite quanto una sorta di marchio di fabbrica, di brand. Fumetto che ogni poche pagine cambia stile. Anche perché questo, per, appunto, raccontando anche la storia di Radio Città Fujiko, essendo una radio comunitaria con tante anche sensibilità diverse, è giusto anche che vengano rese con grafiche diverse. Sì, probabilmente può essere appunto anche un modo per sottolineare la pluralità di voci della radio. Questo è quello che abbiamo cercato di esprimere anche nella copertina, che mette insieme con una posa da quarto stato più o meno tutti i personaggi, diciamo, i narratori della radio, che sono quelli che sono entrati, che ci hanno presentato le storie, tutti insieme ad alcuni dei personaggi delle loro storie, e ogni personaggio è stato disegnato dall'autore che ha disegnato quella storia. Quindi anche dalla copertina tutti i mini personaggini sono disegnati uno diverso dall'altro. Mi è sembrato che fosse un modo anche per rispettare la pluralità di voci che caratterizza la vostra radio. Non diciamo di più, sennò poi le persone non vengono mercoledì. E allora io intanto ti ringrazio e ricordo l'appuntamento, la presentazione del fumetto Come alla radio, mercoledì 8 ottobre alle 20:30 al Centro Sociale della Pace in Via del Pratello 53.